ad alta voce. Elio De Capitani legge Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. I grandi calori andavano passando in quel settembre avanzato e cedevano al primo fresco, precursore dell'autunno. I venti mutavano direzione, non portando più l'arsura bruciante dei deserti, ma un vago sentore marino. E i tramonti allungavano per delle ore le loro strisce di rossi fuochi sui monti di Calabria, nell'aria piena dei voli delle cornacchie e dei pipistrelli. Sulla mia terrazza il cielo era immenso, pieno di nubi mutevoli. Mi pareva di essere sul tetto del mondo o sulla tolda di una nave ancorata in un mare pietrificato. A monte, verso Levante, le casupole di Gagliano di Sotto nascondevano agli sguardi il resto del paese, che, costruito sulla cresta di un'onda di terra a saliscendi, non si riesce mai a vedere intero da nessuna parte. Dietro i loro tetti giallastri spuntava la costa di un monte al di sopra del cimitero, e di là, prima del cielo, si sentiva il vuoto della valle. Sulla mia sinistra, a mezzogiorno, c'era la stessa vista che dal palazzo, la distesa sconfinata delle argille, con le macchie chiare dei paesi, fino ai confini del mare invisibile. Alla mia destra, a mezzanotte, scendeva la frana sul burrone rinchiuso fra i monti, che mostrava la loro faccia spelacchiata e brulla. In fondo al burrone il sentiero, dove vedevo muoversi, non più grandi di formiche, i contadini che andavano e venivano dai campi. La Giulia si meravigliava che io sapessi distinguere a una tale distanza i gaglianesi dai forestieri, i contadini dai mercanti ambulanti. E per quanto la mia vista fosse buona, non avrei davvero potuto farlo se non per divinazione o per magia. Ma avevo notato il loro diverso modo di camminare. I contadini avanzano rigidi, senza muovere le braccia. Ogni volta che io vedevo uno di quei puntini muoversi oscillando con un dondolio e un'aria quasi di danza, potevo essere certo che era uno di città. Presto la tromba del banditore Becchino avrebbe annunciato il suo arrivo e chiamate le donne all'acquisto delle sue mercanzie. Dinanzi a me, verso occidente, dietro le larghe foglie verdi e grigie del fico dell'orto e i tetti delle ultime catapecchie digradanti in pendio, sorgeva il timbone della Madonna degli Angeli, un monticciolo di terra tutto incavi e sporgenze, con poca erba rada qua e là nella parte meno dirupata, come un osso di morto, la testa di un femore gigantesco che portasse ancora attaccati dei brandelli secchi di carne e di pelle. A sinistra del timbone, per un tratto lunghissimo, fino laggiù in fondo verso l'Agri, dove il terreno si spianava in un luogo detto il Pantano, era un seguirsi digradante di monticelli, di buche, di coni di erosione rigati dall'acqua, di grotte naturali, di piagge, fossi e collinette di argilla uniformemente bianca, come se la terra intera fosse morta e ne fosse rimasto al sole il solo scheletro imbiancato e lavato dalle acque. Dietro questo ossame desolato era nascosto, su una piccola altura, sul fiume Malarico, Gaglianello. E più lontano si vedeva il greto dell'Agri. Di là dall'Agri, su una prima fila di colline grigie, sorgeva bianco Sant'Arcangelo, il paese di Giulia. E dietro, più azzurre, si levavano altre colline ed altre ancora, schierate più indietro, con dei paesi vaghi nella distanza. E più in là ancora i borghi degli Albanesi, sulle prime pendici del Pollino, e dei monti di Calabria che chiudevano l'orizzonte. Un po' a sinistra, e più in alto di Sant'Arcangelo, appariva a mezza costa di un'altura il biancore di una chiesa. Qui usavano convenire in pellegrinaggio le genti della valle. Era un luogo di molta devozione, sede di una Madonna miracolosa. In questa chiesa erano conservate le corna di un drago che infestava nei tempi antichi la regione. Tutti a Gagliano le avevano vedute. Io purtroppo non potei mai andarci come avrei desiderato. Il drago, a quello che mi raccontano, abitava in una grotta vicino al fiume e divorava i contadini, e riempiva le terre col suo fiato pestifero, rapiva le fanciulle, distruggeva i raccolti. Non si poteva più vivere in quel tempo a Sant'Arcangelo. I contadini avevano cercato di difendersi, ma non potevano far nulla contro quella bestiale potenza mostruosa. Ridotti alla disperazione, costretti a disperdersi come animali su per i monti, pensarono infine di rivolgersi per soccorso al più potente signore dei luoghi, al principe Colonna di Stigliano. Principe venne, tutto armato, sul suo cavallo, andò alla grotta del drago e lo sfidò a battaglia. Ma la forza del mostro, dalla bocca che lanciava fuoco e dalle enormi ali di pipistrello, era immensa e la spada del principe pareva impotente di fronte a lui. A un certo momento quel valoroso si sentì tremare il cuore e stava quasi per darsi alla fuga o per cadere fra gli artigli del drago, quando gli apparve, vestita di azzurro, la Madonna, che gli disse con un sorriso: «Coraggio, principe Colonna!» E rimase da una parte, appoggiata alla parete di terra della caverna, a guardare la lotta. A questa visione, a queste parole, l'ardimento del principe si centuplicò e tanto fece che il dragone cadde morto ai suoi piedi. Il principe gli tagliò la testa, ne staccò le corna e fece edificare la chiesa perché vi fossero per sempre conservate. Passato il terrore, liberato il paese, i sant'arcangelesi tornarono alle loro case e così fecero quelli di Noepoli e di Senise e degli altri paesi lì attorno che, come loro, avevano dovuto fuggire per i monti. Bisognava ora compensare il principe per il servizio reso. In quei tempi antichi i signori, per quanto cavallereschi e amanti di gloria e protetti personalmente dalla Madonna, non usavano muoversi per nulla. Si radunarono perciò gli abitanti di tutti i paesi, fatti sicuri dalla morte del drago, per deliberare. Quelli di Noepoli e di Senise proposero di dare al principe alcune loro terre in signoria feudale, ma quelli di Sant'Arcangelo, che ancora oggi sono reputati avari e astuti e che volevano salvare la terra, fecero una diversa proposta. «Il drago», dissero, «abitava nel fiume. Era una bestia dell'acqua. Il principe si prenda dunque il fiume, diventi il signore della corrente». Il loro consiglio prevalse. L'agri fu offerto al Colonna e quello lo accettò. I contadini di Sant'Arcangelo credevano di aver fatto un buon affare e di aver ingannato il loro salvatore, ma avevano fatto male i loro conti. L'acqua dell'Agri serviva ad irrigare i campi e da allora bisognò pagarla al principe e ai signori feudali suoi discendenti per tutti i secoli. Così ebbe origine una servitù che si è conservata fino alla seconda metà del secolo scorso. Non so se esistano ancora oggi dei discendenti diretti di quell'antico paladino e se vantino ancora i loro diritti sull'acqua. Un mio amico, il direttore d'orchestra Colonna, che discende da un ramo collaterale dei principi di Stigliano e potrebbe portarne il titolo, non sapeva neppure, quando dopo molti anni gliene parlai, dove fosse Stigliano, il suo feudo, e tantomeno sapeva nulla del drago, gloria della sua famiglia. Ma i contadini, che hanno pagato l'acqua per molti secoli e che vanno ancora in pellegrinaggio a contemplare le corna del mostro, si ricordano del drago e della Madonna e del principe. Che ci fossero da queste parti dei draghi nei secoli medievali. I contadini della Giulia che me ne parlavano dicevano: in tempi lontani, più di 100 anni fa, molto prima del tempo dei briganti. Non fa meraviglia. Né farebbe meraviglia se ricomparissero ancora, anche oggi, davanti all'occhio atterrito del contadino. Tutto è realmente possibile quaggiù, dove gli antichi dì dei pastori, il caprone e l'agnello rituale, ripercorrono ogni giorno le note strade, e non vi è alcun limite sicuro a quello che è umano verso il mondo misterioso degli animali e dei mostri. Ci sono a Gagliano molti esseri strani che partecipano di una doppia natura. Una donna, contadina di mezza età, maritata e con figli, e che non mostrava vederla nulla di particolare, era figlia di una vacca. Così diceva tutto il paese, e lei stessa lo confermava. Tutti i vecchi ricordavano la sua madre vacca, che la seguiva dappertutto quando era bambina, e la chiamava muggendo e la leccava con la sua lingua ruvida. Questo non impediva che fosse esistita anche una madre donna, che ora era morta, come da molti anni era morta anche la madre vacca. Nessuno trovava in questa doppia natura e in questa doppia nascita nessuna contraddizione. E la contadina, che anch'io conoscevo, viveva placida e tranquilla come le sue madri, con la sua eredità animalesca. Alcuni assumono questa mescolanza di umano e di bestiale soltanto in particolari occasioni. I sonnambuli diventano lupi, licantropi, dove non si distingue più l'uomo dalla belva. Ce n'era qualcuno anche a Gagliano, e uscivano nelle notti d'inverno per trovarsi con i loro fratelli, i lupi veri. Escono la notte, mi raccontava la Giulia, e sono ancora uomini. Ma poi diventano lupi e si radunano tutti insieme con i veri lupi attorno alla fontana. Bisogna star molto attenti quando ritornano a casa. Quando battono all'uscio la prima volta, la loro moglie non deve aprire. Se aprisse, vedrebbe il marito ancora tutto lupo e quello la divorerebbe e fuggirebbe per sempre nel bosco. Quando battono per la seconda volta, ancora la donna non deve aprire. Lo vedrebbe con il corpo già fatto di uomo, ma con la testa di lupo. Soltanto quando battono all'uscio per la terza volta si aprirà, perché allora si sono del tutto trasformati. Ed è scomparso il lupo e riapparso l'uomo di prima. Non bisogna mai aprire la porta prima che abbiano battuto 3 volte. Bisogna aspettare che si siano mutati, che abbiano perso anche lo sguardo feroce del lupo e anche la memoria di essere stati bestie. Poi quelli non si ricordano più nulla. La doppia natura è talvolta spaventosa e orrenda, come per i licantropi, ma porta con sé sempre una attrattiva oscura e genera il rispetto come a qualcosa che partecipa della divinità. Qualcosa di questo genere era riconosciuta da tutti in paese per il mio cane, che non era riguardato come un cane normale, ma come un essere straordinario, diverso da tutti gli altri cani e degno di essere particolarmente onorato. Anch'io, Del resto, ho sempre pensato che in lui ci fosse un elemento infantilmente angelico o demoniaco, e che i contadini non avessero torto nel trovargli quell'ambiguità che obbliga all'adorazione. Già, la sua origine era misteriosa. Questo cane era stato trovato in treno, sulla linea che da Napoli va a Taranto, con un cartellino appeso al collare che diceva: «Il mio nome è Barone. Chi mi trova abbia cura di me». Non si seppe dunque mai di dove venisse. Forse dalla grande città, poteva essere il figlio di un re. Lo presero i ferrovieri e lo tennero qualche tempo alla stazione di Tricarico. Quelli di Tricarico lo regalarono ai ferrovieri della stazione di Grassano. Il podestà di Grassano lo vide, se lo fece dare dai ferrovieri e lo tenne nella sua casa con i suoi bambini, ma poiché faceva troppo chiasso, ne fece dono a suo fratello, segretario del sindacato dei contadini di Grassano, che lo portava sempre con sé nei suoi giri per la campagna. Tutti conoscevano Barone e tutti a Grassano lo consideravano un essere straordinario. Un giorno, nei tempi in cui vivevo solo laggiù, mi avvenne di dire per caso a dei miei amici contadini artigiani che non mi sarebbe dispiaciuto avere un cane per la compagnia. La mattina dopo mi portarono subito un cucciolo, uno dei soliti cani gialli da caccia. Lo tenni qualche tempo, ma non mi piaceva. Non mi riusciva di allevarlo, sporcava dappertutto e non mi pareva intelligente. Perciò lo restituì a quelli che me l'avevano regalato e non pensai più a cani. Ma quando arrivò improvvisamente l'ordine di partire per Gagliano e quella buona gente che mi si era affezionata ne fu spiacentissima, come di una disgrazia che li avesse ingiustamente colpiti, i contadini vollero lasciarmi un regalo, che mi seguisse e mi rammentasse che a Grassano c'erano dei buoni cristiani che mi volevano bene. Si ricordarono di quel mio vecchio desiderio che io mi ero ormai dimenticato e decisero di regalarmi un cane. Ma nessun altro cane era degno di me, se non il famoso Barone. E Barone doveva essere mio. Tanto dissero e tanto fecero che riuscirono a farselo dare dal suo padrone, lo pulirono, lo lavarono, gli cercarono un bel collare, una museruola e un guinzaglio. Antonino Roselli, il giovane barbiere e flautista che sognava di seguirmi in capo al mondo come mio segretario, lo tosò da leoncino, lasciandogli il lungo pelo sul davanti e rasandolo sul dietro con un grosso ciuffo in cima alla coda. E ingentilito, bianco, profumato e travestito, Barone, il selvaggio Barone, mi fu offerto in dono, a ricordo eterno della buona città di Grassano, il giorno prima della mia partenza. Così truccato e abbellito, io stesso non capivo che cane fosse. Mi pareva uno strano miscuglio di cane barbone e di cane da pastore. In verità era forse un cane da pastore, ma di una razza o incrocio non comune. Non ne ho mai incontrati altri identici. Era di media grandezza, tutto bianco, con una macchia nera sulla punta delle orecchie, che aveva lunghissime e pendenti ai lati del viso. Questo era molto bello, come quello di un drago cinese, spaventoso nei momenti di furore o quando mostrava i denti, ma con due occhi rotondi e umani color nocciola, coi quali mi seguiva senza voltare il capo, pieno volta a volta di dolcezza, di libertà e di una certa infantile misteriosa arguzia. Il pelo era lungo quasi fino a terra, ricciuto, morbido e lucente come la seta. La coda, che egli portava arcuata e svolazzante come un pennacchio di guerriero orientale, era grossa come quella di una volpe. Era un essere allegro, libero e selvaggio. Si affezionava ma senza servilità. Ubbidiva ma conservava la sua indipendenza. Una specie di folletto, di spiritello familiare, bonario, ma in fondo irraggiungibile. Più che camminare, saltava a grandi balzi, come con un ondeggiare delle orecchie e del pelo. Inseguiva le farfalle e gli uccelli, spaventava le capre, lottava con i cani e con i gatti, correva solo per i campi guardando le nuvole, sempre pronto, scattante, in un continuo gioco aereo, come seguisse il filo ondulante di un innocente pensiero inumano, l'elastico incarnarsi di un bizzarro spirito dei boschi. Fin dal nostro primo arrivo a Gagliano, l'attenzione di tutti si posò su questo mio strano compagno. E i contadini, che vivono immersi nell'incanto animalesco, si accorsero subito della sua natura misteriosa. Non avevano mai visto una bestia simile. In paese ci sono soltanto i segugi bastardi, buoni cacciatori talvolta, ma miseri, umiliati, plebei. E solo di rado passa dietro i greggi e i pastori qualche maremmano feroce col collare irto di punte di ferro contro il morso dei lupi. E poi il mio cane si chiamava Barone. In questi paesi i nomi significano qualcosa. C'è in loro un potere magico. Una parola non è mai una convenzione o un fiato di vento, ma una realtà, una cosa che agisce. Egli era dunque, davvero, un barone, un signore, un essere potente che bisognava rispettare. Se fin dal primo giorno io fui guardato dai popolani con simpatia e quasi con ammirazione, lo dovetti certo un poco anche al mio cane. Quando egli passava, pazzamente saltando e abbaiando nella sua folle libertà naturale, i contadini se lo additavano e i ragazzi gridavano: «Guarda, guarda, mezzo barone, mezzo leone!» Barone per loro era un animale araldico, il leone rampante sullo scudo di un signore. E tuttavia era soltanto un cane, un frusco come tutti gli altri. Ma questa sua doppia natura era meravigliosa. Anch'io lo amavo per questa sua semplice molteplicità. Ora egli è morto, come mio padre, a cui l'avevo regalato, ed è sepolto sotto un mandorlo, in faccia al mare di Liguria, in quella mia terra dove io non posso mettere il piede, poiché pare che i potenti, nel loro terrore del sacro, abbiano scoperto che anche in me è una doppia natura e che anch'io sono mezzo barone e mezzo leone. Tutto per i contadini ha un doppio senso. La donna vacca, l'uomo lupo, il barone leone, la capra diavolo, non sono che immagini particolarmente fissate e rilevanti, ma ogni persona, ogni albero, ogni animale, ogni oggetto, ogni parola partecipa di questa ambiguità. La ragione soltanto ha un senso univoco e, come lei, la religione e la storia. Ma il senso dell'esistenza, come quello dell'arte e del linguaggio e dell'amore, è molteplice, all'infinito. Nel mondo dei contadini non c'è posto per la ragione, per la religione e per la storia. Non c'è posto per la religione, appunto, perché tutto partecipa della divinità, perché tutto è realmente e non simbolicamente divino. Il cielo come gli animali, Cristo come la capra. Tutto è magia naturale. Anche le cerimonie della Chiesa diventano dei riti pagani, celebratori della indifferenziata esistenza delle cose, degli infiniti terrestri dei del villaggio. Thank you. Elio De Capitani ha letto Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, tecnico del suono Raffaele Stefani, regia di Diego Marras. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.